giacca sbagliata, padre il mago si presenterà di nuovo qua. Con un cilindro truccato ed un coniglio vecchio quasi come il trucco che fa. E disse abra, cadabra, cadabra, abra. Si fa chiamare zingaro, ma è uno zingaro di lusso e lo sa. Seconda attrazione del circo, Walter il mago tornava da Mario come una star. Le mani molto più ferme e storie di donne che lo aspettavano in ogni città. Per un suo abracadabra, cadabra, abra. È la magia più grossa, giura che gli è successa in casa sua. Con il suo cane per pubblico, per una magia così diceva la pena vivere. Fai comparire una donna, fai apparire una donna, faremo apparire una birra a noi se vuoi. Fai comparire una donna, fai apparire una donna, che questa non ti farà meno freddo. Sui scarsi segreti, Walter il mago si presenterà di nuovo qua. Ci fingeremo stupidi, che non ci costa niente farlo sentire una star. Con i suoi abbracci